Il punto di Stefano Folli. Che in Parlamento si litighi di nuovo sull'IMU e sugli emendamenti relativi non stupisce più di tanto. Il voto di fiducia a Letta della scorsa settimana non significa la fine di ogni tensione all'interno della maggioranza e tantomeno l'inizio dell'armonia universale fra PD e PDL. Semmai colpisce la tentazione, nemmeno troppo velata in certi ambienti del Partito Democratico, di considerarsi i vincitori della partita politica, come se l'uscita di scena di Berlusconi avesse trasformato un governo di coalizione in un esecutivo in cui conta solo la voce del PD sull'IMU e su altri temi. Non è così e lo si vedrà presto, quando la guerra degli emendamenti finirà e si dovrà trovare un punto di equilibrio. Quale possa essere dipende dal Presidente del Consiglio e dalla sua capacità di sfruttare a dovere l'asse con Alfano, cioè con il PDL post Berlusconi, che cerca ancora una propria identità, ma non è così lontano dal trovarla.